senza frontiere, già oggi si possa fare tutto senza frontiere. In realtà no. Anzi, è molto più single market, cioè molto più mercato unico quello delle cose fisiche piuttosto che quello delle cose, degli oggetti digitali. Sì, devo dire, allora, un po' anacronistico, perché ormai è incredibile, un problema di vario genere, cioè ci sono problemi commerciali, problemi di diritti, si sta lavorando ma ci si sta veramente accapigliando perché i problemi sono tantissimi. Allora, l'ultima notizia che riguarda questo tema. E, l'avete sicuramente sentita, letta, però non so quanti hanno approfondito. Allora, dal 30 di aprile c'è stato un nuovo taglio alle tariffe di roaming, cioè le tariffe che noi, quello che noi spendiamo quando siamo all'estero e o telefoniamo, uh-huh, o mandiamo un SMS o navighiamo in internet, facciamo un messaggio con un instant messenger. Ti faccio eccetera, subito eccetera. La domanda, quella proprio basica. Le tariffe che però non c'entrano nulla con quello che quel messaggio che ogni volta che passiamo il confine ci appare, se abbiamo una promozione che si può chiamare passport, che si può chiamare un altro modo a seconda dei vari gestori. Cioè, i gestori ci possono offrire. Sì, allora. Un paio di minuti, un minuto. Allora, diciamo subito che le tariffe sono diminuite e il nuovo sistema funziona in questo modo molto semplice. Viene applicato per ogni, ad esempio, minuto di telefonata, sì, la nostra tariffa nazionale, quindi quello che noi spendiamo normalmente, più un extra costo che è molto basso. Di solito i prezzi vengono dati senza IVA, facendo il calcolo si arriva a 6,1 centesimi, quindi 0,06 euro, e giusto per capirci, una telefonata di 10 minuti costa 60 centesimi in più rispetto a quello che noi paghiamo già con la nostra tariffa nazionale. 10 telefonate di 10 minuti, 6 euro, in effetti non è pochissimo. E allora qui vengo al tuo punto. Sì. Tutti i gestori, i quattro gestori nazionali, offrono tutti dei pacchetti per andare all'estero, tipicamente tarati sulla vacanza, quindi ci sono pacchetti di 6 giorni, 10 giorni, dipende dall'operatore, ma ci sono anche dei pacchetti giornalieri. Allora, molto spesso conviene aderire a queste offerte. Se uno fa pochissime telefonate o comunque pochissimi SMS o naviga molto molto molto molto poco, oppure forse non anche convengono. Perché spesso all'estero, in tanti paesi, comunque c'è un wifi talmente diffuso, sì, che ormai sì. Anche io devo dire la verità, diffuso, sì, no, beh, sì. Ovviamente dico per noi che quando andiamo all'estero, a me capita spesso di non usare proprio la connessione, sì, dati, sì, sì, di limitare telefonate e SMS, usare molto WhatsApp perché tra un sì, wifi e l'altro. Esatto, sì, sì. Allora, diciamo, nelle telefonate che tu fai, questo può essere una buona soluzione. Magari il problema è quando tu ricevi le telefonate, ah, certo, o attacchi e quindi non la ricevi. Allora, da questo c'è una buona notizia, perché il costo di ricezione della chiamata, quindi la chiamata in entrata, è di un centesimo appena, quindi di fatto, insomma, costa praticamente, insomma, veramente molto molto poco, quindi possiamo permetterci questo. Tutto ciò in attesa del giugno 2017. Allora, che cosa succederà nel giugno del 2017? Verranno tagliate completamente, cioè azzerate, le tariffe di roaming, non ci saranno più. Ma attenzione, attenzione, perché non è completamente vero, è un po' come dire, c'è l'asterisco, cioè le tariffe roaming sono azzerate, ma sì, da qui ai prossimi mesi in Europa le autorità delle comunicazioni, c'è tutto un gruppo di lavoro che sta mettendo a punto un nuovo regolamento, e ci saranno dei limiti per il cosiddetto uso equo e anche per evitare degli usi impropri. Mi spiego, se uno va e prende una SIM dell'Estonia, molto probabilmente in Estonia il costo della telefonia mobile è più basso rispetto a quello dell'Italia. Okay. Allora, se fossero completamente azzerate le tariffe di roaming, non ho più un operatore italiano, ma ho un operatore finlandese. Oddio, temo che la Finlandia possa essere un po' più cara, però ho detto un paese sì, a caso. Polacco, che ne so, certo, un paese dell'Unione Europea dove costa meno, e io uso nel mio paese, se così fosse, se ci fosse il limite 0,0. Certo, certo. In realtà ci saranno dei limiti comunque che dovranno essere appunto ancora definiti. Perché la concorrenza in questo non si può totalmente azzerare. Beh, in effetti i costi diversi della telefonia mobile, ma del resto insomma di tutti i costi in generale sono diversi da paese a paese, quindi sarebbe un po' una concorrenza sleale. Anche perché poi magari le infrastrutture, non lo so, se io do soldi, per parlare molto piano, al mio operatore italiano, spero che gli investimenti in infrastrutture vengano poi fatti in Italia. Se invece l'Estone, ormai ci è piaciuta l'Estonia, magari, preso come esempio, magari contribuisco ad arricchire le infrastrutture estoni, ma non a casa mia. Ecco. È un discorso corretto, in effetti questi limiti sono posti, però ovviamente come dire, dovranno essere fatti sull'uso medio che un utente fa, perché ovvio che se uno consuma moltissimi dati perché va spesso all'estero, magari per lavoro, o fa un buon accordo con il proprio operatore nazionale perché gli faccio delle tariffe molto buone, dei pacchetti di tariffe molto buone all'estero, oppure può comprarsi una SIM locale. No? Oppure può, perché noi adesso abbiamo parlato solo dell'Europa, questi pacchetti degli operatori spesso comprendono paesi molto frequentati turisticamente, come ad esempio gli Stati Uniti. Certo. Però ci sono anche, queste sono veramente utili per chi è un cosiddetto globetrotter, cioè che veramente viaggia e salta da un paese all'altro, ci sono anche delle SIM globali, cioè delle SIM che a tariffe predefinite ti permettono di telefonare alla stessa tariffa in qualsiasi parte del mondo. Oppure se uno, oltre ad essere un globetrotter, va anche in alcuni paesi strani, beh, a quel punto la vera tariffa la vera telefonia senza confini è il telefono satellitare, però con costi diversi, però copertura veramente globale. C'è magari qualche problemino al polo, però andremo a controllare, Enrico, andremo a controllare. A proposito di spostamenti, traffico per qualche istante, poi ci ritroviamo ancora. Il sabato del villaggio. E rieccoci, Enrico, stavamo parlando di frontiere e di roaming. Non so se abbiamo ancora qualcosa da dire o se passiamo già all'app della settimana. Beh, al massimo possiamo richiamare l'attenzione sulla navigazione all'estero. Attenzione, perché prima abbiamo fatto un esempio sulle telefonate. Le telefonate appunto costano abbastanza poco, non spendiamo tantissimi soldi. Invece sulla navigazione è molto facile sforare non tanto i limiti, ma comunque andare molto oltre a un uso normale, perché se ci si scambia fotografie sugli instant messenger eccetera eccetera, si fanno molti dati. Allora lì bisogna stare attenti, magari bloccare il roaming dati e andare sul wifi. Si fanno molti dati e si fanno molti danni, entrambe le cose. Esattamente. Allora, a proposito di confini e di confini che vorremmo per alcune cose scomparissero, se uno va, se uno vive in una città e usa i mezzi pubblici, ne abbiamo parlato in altre occasioni, può con grande soddisfazione utilizzare tipicamente l'app del proprio sullo smartphone, l'app del proprio gestore di servizi pubblici, di mezzi pubblici. Cioè, a Milano, l'ATM, a Roma, l'ATAC, ognuno ha la sua app. Allora, noi che siamo a Milano, io devo dire che l'applicazione di ATM è fatta molto bene, non ho esperienze sulle altre applicazioni. Però se uno si sposta, potrebbe usare, allora ce ne sono due che si fanno concorrenza, ce ne sono varie, però diciamo che le due che si fanno maggiore concorrenza sono Moovit, che è scritto con due O, Moovit. Mm-hmm, che è quella che uso io, adesso voglio provare anche l'altra. Allora, l'altra si chiama City Mapper. Okay. Che cosa fanno queste applicazioni? Mettono assieme tutti i dati pubblici a disposizione, che ne so, il percorso che fa l'autobus, il percorso della metropolitana, ma poi si stanno arricchendo anche di altre cose, il bike sharing, il car sharing, i servizi di taxi che posso prenotare con le applicazioni, e mettono insieme questi dati sia statici, quindi che ne so, la mappa della metropolitana, ma anche dinamici, e quindi l'orario, se io sono ad una fermata mi dicono fra quanti minuti arriva l'autobus, li mettono tutti assieme e oltre ad avere delle informazioni puntuali, perché io so che fra 5 minuti arriva l'autobus, posso anche integrarli, metterli assieme e dire: io voglio andare dal punto A al punto B, che cosa mi suggerisci? Ripeto, lo fanno anche le applicazioni locali, però se io mi sposto, per esempio, adesso vai a Stoccolma e invece di perdere tempo a cercare l'app di Stoccolma, dici uso City Mapper o Moovit. No. Lo farò sicuramente. Grazie Enrico, rimani con noi perché parliamo di cinema. Ciao Enrico. Capitano, molte persone la vedono come un eroe. So che Bucky è importante per te. Se non possiamo accettare le regole, siamo come i cattivi. Io non la vedo così. Voglio essere sicuro di considerare tutte le opzioni. Quelli che ti sparano addosso spesso sparano addosso anche a me. Mi dispiace, Tony. Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta. Lui è mio amico. Lo ero anch'io. E questo è un minuscolo anticipo di uno dei film più attesi del mese, Capitan America, il numero 3, che è uscito proprio questo fine settimana. Andiamo a vederlo o no? Lo chiediamo al nostro Franco D'Assisti. Franco, com'è questo Capitan America? Questo Capitan America, Marta, effettivamente tradisce un po' le attese, almeno per tenuta, perché è un film di 2 ore e 25 minuti che ha, soprattutto nella prima parte, numerosi momenti un po' di stagnazione, chiamiamoli così, se non proprio di noia. È il terzo capitolo, ricordiamolo, della saga di Capitan America, Civil War. Ancora una volta Steve Rogers, appunto Capitan America, è al comando di questa squadra di Avengers che deve salvare il mondo, ma le cose nello scorso capitolo non erano andate benissimo, come ricorderete, in Sokovia, e insomma i danni collaterali, e questa è un po' la riflessione seria, se vogliamo, che si può aggregare a questo film, i danni collaterali di quell'operazione, delle operazioni di questa squadra di supereroi cominciano a stancare un pezzo di mondo, e allora c'è una divisione. C'è chi dice quegli Avengers devono andare avanti con i loro mezzi senza guardare in faccia nessuno, e questo plotone è capitanato proprio da Capitan America. C'è chi dice pieghiamocela la legge, stiamo un po' più tranquilli, cerchiamo di cavarcela stando dentro i meandri, appunto, del legale, e questo plotone di supereroi è capitanato da Iron Man. Ecco, queste due squadre, legalità contro facciamo quello che possiamo, contro sceriffismo, possiamo dire, vengono alle mani, però vengono alle mani un po' troppo tardi, e questo è il tema. E allora la lievitazione di questa torta è talmente lunga che in certi momenti un pochino uno guarda l'orologio. Questo fine settimana torna in sala anche uno dei registi che amo di più, Michel Gondry. Dimmi, Franco, che Gondry non mi deluderà. Ma non ti deluderà, perché Microbo e Gasolina di Gondry è un ritorno al Gondry più semplice, se vogliamo, ma sempre con le sue invenzioni, con le sue macchine strane. Anzi, questa volta fanno parte proprio della trama, perché Microbe nel titolo originale è un ragazzino molto molto timido, tutto perso, con la testa fra le nuvole. Gasolina invece è uno brillante, un po' spaccone, pieno di inventiva. I due si incontrano a metà dell'anno scolastico, diventano grandi amici anche per la loro grande diversità. Arrivano le vacanze estive, nessuno vorrebbe andare via con la propria famiglia, e allora col motore di una falciatrice vecchia e con un po' di assi di legno mettono insieme l'ennesima macchina strana dell'universo di Gondry, la loro automobile, con le quali partono all'avventura sulle strade della Francia. È un film dalla trama, se vogliamo, estremamente semplice, che stavolta si rivolge molto a un pubblico anche adolescenziale. Sembra appunto che Gondry voglia guardare a un pubblico molto giovane, perché alla fine è un film, è un romanzo di crescita, è la storia di come questi due personaggi così diversi per osmosi si trasmettano qualcosa l'uno dell'altro e ne escano più forti tutti e due. Un film con la solita delicatezza che ci ha insegnato ad usare il buon Gondry, con un cast che è perfetto per i due ragazzi protagonisti e che mette in scena anche Audrey Tautou, la Amélie, ricorderete, del film che raggiunse il successo internazionale nel 2001. E insomma, davvero un consiglio per tutti. Film italiani invece esce qualcosa? C'è un film molto particolare che voglio segnalare, che arriva da Napoli, che per il momento esce in poche sale, ma che sicuramente troverà degli spazi. Si intitola La buona uscita, è una commedia diretta dal napoletano Enrico Iannaccone, classe 89, quindi giovanissimo, che racconta la storia di un uomo di 40 anni, molto libero anche mentalmente, anzi anche un piuttosto spregiudicato nei suoi affari, molto ricco. ed è l'incontro con una donna sui 50 anni che a dispetto dei suoi 300 amanti che la farebbero passare per ninfomane viene definita un femminone, no? Con linguaggio tipicamente napoletano. Ebbene, questa donna, di cui Marco, il protagonista maschile, è l'amante di letto, diciamo, più frequente, meno sporadico, questa donna a un certo punto decide di sposarsi con un uomo molto più giovane di lei, e qui chiaramente il film prende una via. I due personaggi che vivevano di queste loro certezze in una libertà assoluta chiaramente vengono messi in crisi. Per chi, Franco, invece volesse andare al cinema con i bimbi, con i ragazzi, con i più piccoli, c'è qualcosa da vedere? Abbiamo una proposta, Marta, che è assolutamente obbligatoria in questo senso, perché mette insieme la grande letteratura per i giovani, pensate al libro, al capolavoro di Defoe, Robinson Crusoe, con l'animazione che piace tanto ai bambini, quella in computer animation. Stiamo parlando appunto di Robinson Crusoe, che per la prima volta trova un versante animato, e lo trova anche con un nuovo punto di vista, che è quello degli animali. Cioè Robinson arriva su un'isola deserta, naufrago, ma noi lo vediamo raccontato dagli animali che su quell'isola abitano, a partire dal pappagallo Martedì. C'è stata una piccola variazione sul tema, dal pappagallo Martedì, che vive questo naufrago come un ennesimo animale strano che è arrivato sull'isola. Questo è un po' il punto di vista originale di una storia che per il resto ricalca quella del famoso romanzo. È un film di produzione europea, importante questo, perché dimostra ancora una volta come l'animazione europea stia facendo proprio passi avanti importanti nella direzione, insomma, di la qualità assoluta che ci hanno insegnato gli americani. Grazie Franco, l'appuntamento con te dunque dopo il GR delle 18 con La Rosa Purpura, e ancora al prossimo Sabato del Villaggio. Assolutamente, ci sentiamo alle 18, un'ora di cinema qui su Radio 24, e poi sabato prossimo. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con la seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Siamo in diretta, quindi potete contattarci al 349-238-6666, numero che come sempre va bene per i vostri sms e anche per i vostri messaggi WhatsApp. Davanti a me ho anche uno smartphone e un tablet, quindi potete scrivermi anche via Twitter, @MartaCagnola, il mio account. C'è anche un hashtag, cancelletto ISDV, come il sabato del villaggio. Ma ora scopriamo i temi della seconda ora, sempre senza frontiere. Questo è il nostro filo conduttore. Come dicevamo, cominceremo a dare uno sguardo allo Eurovision Song Contest. Andremo dietro le quinte del Festival Europeo che parte in questi giorni a Stoccolma, lo vedremo in TV in Italia e scopriremo che cosa sta succedendo in queste ore. Nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali, ve l'ho anticipato, torneremo sulla pizza, davvero il nostro cibo senza frontiere per eccellenza. Tutti i libri del momento e anche qui senza frontiere nello spazio di Alessandra Tedesco, ma partiamo subito con la televisione. Una serie italiana che ha davvero varcato tutti i confini. Pietro Savastano è tornata. Ti posso assicurare una cosa? Ci ripigliamo tutta quella che con questo. La mano che ci ha fatto male è sempre stessa. Via libertà, l'ha già cattato con sangue. O prima che gli esce la cava fuori un sacco, ci tagliamo. Se non può fare quello, che può fare? E che se niente rispetto a quella che ha da succedere. Beh, davvero attesa, attesissima, venduta in 130 paesi nel mondo. Gomorra 2, torna Gomorra dal 10 maggio, da martedì sera su Sky Atlantic. Dove eravamo rimasti? Beh, si riparte da Ciro, che combatte contro il sopravvissuto Jenny, pronto a sfidare il padre Pietro. Il boss Salvatore Conte cerca nuove alleanze, mentre all'orizzonte si delineano due donne. Sentite qui. Lo sai perché mi chiamano così? Perché ne capisco assai e profumo. E tu puzzi già è morto. Sì, mi chiamano Chanel, questo è il suo soprannome, perché ne capisco di profumi. E si capisce già che è una grande protagonista femminile. Avevamo perso la protagonista nella prima stagione di Gomorra e abbiamo detto: ma come faremo? Come faremo? Arrivano Patrizia e arriva Chanel, un'attrice che io amo in modo particolare. Sono molto contenta di vederla in Gomorra 2. Cristina Donadio, buongiorno Cristina. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Allora, come ci si sente a pochi giorni dalla messa in onda di una serie così attesa? E insomma, avrai gli occhi puntati addosso, Cristina, perché stiamo aspettando Chanel. A parte che ero lì affascinata a sentire tutte le voci, perché poi, come sentendo solo l'audio, veramente... Forse ancora più forte. Potrebbe essere un'idea quella di sentire Gomorra invece di vederla. È intensissima da sentire, è intensissima. Io ho avuto la fortuna di stare sul set della prima Gomorra, quando ancora non si poteva immaginare che sarebbe stato questo successo, e avevo realizzato un audio documentario. Vedi, e mi sono fantastico. Resa conto per quello che avevo, sai, questi audio impressionanti, era così reale, era così, vabbè, insomma, non divaghiamo. Cristina, raccontami com'è questa Chanel, perché io muoio dalla curiosità. Certo, ma ne vedrete delle belle, vedrete cose che voi umani non potete neanche immaginare. Guarda, siamo pronti a tutto, perché già lo eravamo, tosta. Io ho letto un po' di titoli e Lady Gomorra, la mia Chanel iena di potere. Sì, perché in realtà Donna Imma, come dice anche Stefano Solli, ma era una leonessa, e rimaniamo nel campo degli animali, perché ognuno di noi può essere un animale, ognuno di noi diciamo veramente i protagonisti diciamo di Gomorra, e Chanel è una iena, tanto è vero che a un certo punto le dicono a Donna Annalisa, perché il suo vero nome è Annalisa, diciamo, voi con questo vestito siete troppo bella, sembrate proprio una pantera, e lei dice una iena è meglio. Perché a bandera è bella assai, ma non contano cazzo. Invece miete iena come una sunghe femmina. Ora, come vedi, subito il tono della voce si abbassa e diventa un po' duro, perché Chanel parla così. Però per dirti, allora, una leonessa era Donna Imma, una iena è Chanel. Chanel è una iena perché è non solo è cattiva, come sono cattivi tutti, ma è diffidente, non si fida neanche del suo figlio, ha occhi dappertutto, è sempre pronta a balzare perché vuole, come la iena vuole, ma è in cerca di carne da mordere, da ingoiare, lei vuole il potere. Tutti i personaggi che si confrontano e che l'un contro l'altro armati in questa serie lottano per il potere, e per il potere sono pronti a tutto. È affascinante e allo stesso tempo doloroso, perché ci sono tutte queste ispirazioni reali che purtroppo conosciamo bene, Cristina. Sì, ai noi. Per te com'è stato affrontare queste storie? Anche emotivamente, immagino che sia una cosa dura, durissima. Sì. E devo dire che ci sono state delle giornate molto faticose emotivamente, proprio a volte sono tornata a casa proprio disfatta e distrutta da quello che Chanel fa, ma soprattutto perché tu sai che Chanel è un personaggio che si ispira alla realtà come tutti gli altri. E dunque, com'è stato? Diciamo che il mio essere un'attrice di teatro è come quando a teatro mi è capitato di fare Clitennestra o Medea, o questi personaggi così, comunque così forti, diventano degli archetipi, quindi tu ti affidi proprio all'idea archetipica di quello che è il personaggio che vai a affrontare. In più io sono napoletana, quindi so che vivo ogni giorno leggendo la cronaca nera dei miei giornali, dei quotidiani della mia città, che comunque succedono cose. E quindi mi sono ispirata a fatti, icone del male, ma che più o meno erano passati attraverso la mia mente, attraverso i miei occhi. In più gli ho dato un modo di essere che creato aprendo tutti i cassetti della mia, diciamo, della mia memoria e del mio istinto, e quindi un modo di camminare, un modo di fumare, un modo di guardare, un modo di guardare, di tenere la testa sempre alta. Questo e credo di aver costruito una Chanel, un personaggio che veramente rimarrà, come ha detto Saviano sul suo blog, dice, la udirete ma non potrete fare a meno di lei. Adesso avete capito perché mi piace tanto Cristina Donadio, com'è intensa, com'è passionale, anche solo nel raccontare. Cristina, ho un'ultima curiosità, ma è vero che tu avevi fatto il provino per Donna Imma? Sì, sì. Ma pensa alla vita? Proprio all'inizio, quando ancora non c'era una sceneggiatura, insomma, quando cercavano, credo, una faccia, uno sguardo, un corpo in cui mettere poi Donna Imma. Io credo che Maria Pia Calzone sia stata la scelta più giusta. Io sono stata una sua fan, continuerò ad esserlo, e Donna Imma è insostituibile. In realtà Chanel non va a sostituire assolutamente Donna Imma, ma entra con tutto il suo contorno. Sono due donne che hanno dei contorni ben precisi, ma credo che in realtà non era giusto che io aspettassi il momento giusto per diventare Chanel. Vedi, nella vita non si sa mai, perché c'era la porta dopo che si apriva. Esatto. Incredibile, incredibile. Io amo Chanel, amo questa donna, amo nonostante la sua negatività, ma la amo veramente, perché è un regalo per un'attrice avere un personaggio tra le mani con tante sfaccettature con cui poter giocare, no? Usando proprio il termine e il verbo che usano gli inglesi e i francesi, no? Giocare con un personaggio e che non si può interpretare, ma si deve mangiare, fare a pezzetti, mangiare, ingoiare, e che diventi tuo sangue, tuo sudore, tuo sguardo e tua pelle, e quindi ci devi giocare, ma in maniera molto seria. Così è un'attrice. Grazie Cristina. Grazie a Cristina Donadio, che meraviglia. Ti aspettiamo allora da martedì 10 Perfetto. Maggio Sky Atlantic, dal la 10 Chanel. Maggio saremo tutta una cosa, io, gli altri miei compagni, Gomorra e tutti voi. Grazie Cristina, presto. A presto. Ciao. Che meraviglia, io non vedo l'ora di questo Gomorra 2. Ci ritroviamo tra pochissimo, ancora altre pagine del nostro Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Che meraviglia questa Chanel, questo nuovo personaggio di Gomorra che appunto siamo pronti a odiare, ma a non farne a meno, come ha scritto Roberto Saviano. A proposito di Roberto Saviano, facciamo uno dei miei soliti collegamenti, un po' di voli plindarici, quindi libri, e quindi apriamo la pagina dei libri con Alessandra Tedesco. Ecco qua. Anch'io, però avevo il microfono spento. Shostakovich, che ci riporta a tante memorie, ci riporta anche a tante memorie cinematografiche. A me, ad esempio, ricorda Eyes Wide Shut, ma non so perché Alessandra Tedesco mi ha portato a questa atmosfera, perché lei mi dà qualche suggerimento, ma non so bene dove vogliamo andare a parlare. Ciao Alessandra. Ciao Marta, tu te lo ricordi il film Eyes Wide Shut? E la Peppa. Stanley Kubrick. E la Peppa, se me lo ricordo. Quelle atmosfere molto erotiche, molto quasi al limite. Sì. Non dico della perversione, però insomma ci siamo quasi. Non dirmi 50 sfumature. Non parliamoci. Non hai 50 sfumature sotto mano, vero? No. Ti dico però che questo libro, che è il libro di cui si sta parlando maggiormente in questo momento, il Daily Mail l'ha così definito: una storia decadente di lussuria che minaccia di rendere 50 sfumature di grigio il tea party di una zitella in una sala parrocchiale. Cioè, ma se quelli si menavano, questi cosa si fanno? Come si intitola questo libro? No, allora, il libro si intitola Maestra, l'ha scritto Lisa Hilton, pubblicato in Italia da Longanesi. No, non è un libro, diciamo, sadomaso, assolutamente no. Non ci sono cose estreme. Non ci sono cose estreme, ma sicuramente c'è una forte componente di erotismo. Possiamo dire che stato definito anche un thriller erotico, in questo senso. Cioè non si menano ma si danno da fare. Sì, si danno da fare e soprattutto okay. Lei, per esempio la protagonista di questo romanzo maestra, è stata un po' paragonata al protagonista di, ti ricordi il talento di Mr. Ripley? Certo, lui che si certo. inventava una vita parallela proprio. Beh, è quello che fa lei, perché la protagonista lavora nelle case d'asta, nella casa d'asta a Londra e si chiama Judith. La sera che cosa fa? Per arrotondare, mettiamola così, lavora come hostess in uno dei bar per soli uomini della West End di Londra. Ah. A un certo punto praticamente accetta, viene licenziata, accetta l'invito di un tipo in Costa Azzurra, però gli mette un po' troppi sedativi nel bicchiere, insomma succede un macello per cui lei deve fuggire, deve cambiare identità in qualche modo. Quindi c'è l'erotismo, il thriller, il giallo, lei che si inventa una vita parallela un po' come faceva appunto Mr. Ripley con il suo talento. E questo è un romanzo che è stato tradotto prima ancora, cioè sono stati venduti i diritti in molti paesi del mondo prima ancora di essere pubblicato proprio in inglese, cioè la Fiera di Londra. In questa puntata Senza Frontiere anche la maestra è senza frontiere. Sì, anche lei è senza frontiere. A un certo punto il New York Times l'ha definita maestra, una protagonista sexy, intelligente, meravigliosamente spietata. Io a proposito delle, come dire, del Senza Frontiere, ti dico che lei ha studiato arte anche in Italia, a Firenze, ha vissuto a Milano e quindi parla italiano. Ah, in questo senso supera le frontiere. Fantastico, fantastico. Poi devo dirti che rispetto alle 50 sfumature, e sanno gli ascoltatori che io quanto non sono stata detestiamo. Una grana, niente, mi sono applicata, ma senza pregiudizio, non erano di mio gusto. Questo già come trama mi potrebbe piacere di più. Non no, lo maestra, so. Maestra è scritto anche meglio, posso dire, dal punto di vista proprio, non dico letterario, però dal punto di vista narrativo è sicuramente scritto meglio, anche perché Lisa Hilton è una scrittrice, lei scriveva in genere biografie di reali inglesi, poi a un certo punto le è partito l'embolo e ha scritto questo romanzo decisamente erotico. Maestra, segnatevelo perché è il romanzo di cui si parlerà maggiormente soprattutto quest'estate, possiamo scommetterci, e lo consiglio a uomini e donne che magari sono rimasti delusi dalle sfumature di grigio e che vogliono comunque leggere qualcosa che abbia a che fare un po' col mistero e un po' con Shesho, diciamolo, con Shesho. Allora rimaniamo senza frontiere. Che cosa ci può, cosa ti ha ispirato questo mio tema che ti ho lanciato così sul tavolo, senza frontiere? Beh, mi sono venuti in mente innanzitutto gli scrittori italiani che riescono a vendere all'estero, riescono a essere tradotti all'estero e sono veramente pochi. Beh, innanzitutto forse il libro italiano più tradotto all'estero è Il nome della rosa di Umberto Eco. È un classicone. Poi un altro molto tradotto è Andrea Camilleri, e a questo proposito ti anticipo, fan di Camilleri, che prenotate, perché il 27 maggio esce la nuova puntata di Violetta. Ah no, non è Violetta quella di Camilleri. Montalbano. Ma Montalbano, l'altro capo del filo, pubblicato come sempre da Sellerio, ed è il romanzo numero 100 di Camilleri. Numero 100. Non solo dei Montalbano, però capito? 100, cioè, 100 lì. Lui può mettere, allora, 90 candeline per quanto riguarda i suoi anni e 100 per quanto si riguarda i suoi Credo romanzi. Che sia un record. Adesso non è possibile fare un Guinness dei primati, però sono tanti 100. E questo è un romanzo, tra l'altro, anche molto attuale, perché parla di arrivi di migranti a Vigata e praticamente stavolta Montalbano avrà a che fare appunto con molti migranti che arrivano, ma c'è naturalmente un delitto, perché la famosa Livia, insomma la sua fidanzata, lo convince a partecipare alla festa dei 25 anni di matrimonio di una coppia di amici e a farsi un vestito, finalmente un vestito come si deve. Lui va in questo negozio, in questa sartoria, conosce questa Elena che anche insomma gli piaciucchia un po', ma questa sarta viene ritrovata poi uccisa a colpi di forbici. Urca, accidenti. Non ti dico più niente. Accidenti, dobbiamo aspettare a fine maggio? Sì, fine maggio. Consigliato naturalmente a tutti i fan di Camilleri che sono già accampati davanti alla libreria. Sarà, guarda, il libro di cui si parlerà di più nella prima settimana di giugno. Ovviamente, noi però già ci siamo portate avanti, lo sappiamo, non ci coglierà impreparate. Assolutamente no. Hai scoperto chi è Elena Ferrante nel frattempo? No, non ho scoperto, però ti posso dire che è un'altra italiana che ha superato le barriere, forse è amata più negli Stati Uniti, lo diciamo sempre, che in Italia, e adesso è uscito, per chi non avesse voglia voglia di leggersi questi quattro libri dell'amica geniale, che comunque insieme fanno dunque 4, 8, 12, 16, circa 1600-1500 pagine. È uscito l'ultima puntata, diciamo, della saga, La storia della bambina perduta, in audiolibro per Emmons, letto niente poco di meno che da Anna Bonaiuto. Ascoltiamocene un pezzettino. A partire dall'ottobre 1976 e fino a quando nel 1979 non tornai a vivere a Napoli, evitai di riallacciare rapporti stabili con Lila. Ma non fu facile. Lei cercò quasi subito di rientrare a forza nella mia vita e io la ignorai, la tollerai, la subii. Anche se si comportava come se non desiderasse. Allora, devo dire che gli audiolibri sono particolarmente preziosi, non solo, vabbè, per chi magari è un po' pigro oppure vuole ascoltarseli in vacanza, ma ci sono tanti pendolari che li ascoltano negli spostamenti. È vero. Ogni tanto io ascolto molta radio e molta musica in macchina, perché faccio qualche chilometrino in macchina, e ogni tanto mi concedo anche in qualche periodo qualche audiolibro ben letto, perché mi tiene compagnia negli spostamenti. Come vorrei che tu avessi ragione. Tutte quelle persone in metropolitana che vedo con le cuffiette magari stanno ascoltando un audiolibro. Magari, se non ci avete mai pensato, provate a pensarci, perché è una cosa molto carina nello spostamento ascoltare un audiolibro. Ma Scrittori senza frontiere non si fermano qui, mi sembra, sai, il gioco, no? Sì, esatto, non si ferma qui il nostro Scrittori senza frontiere. La corsa dei sacchi non si ferma qui, perché è da poco terminata la fiera internazionale del libro ad Abu Dhabi. Tu dici che ci andiamo a fare ad Abu Dhabi? Beh, quest'anno era dedicata all'Italia, la fiera. E uno dei pochi libri italiani tradotti in arabo si intitola I frutti dimenticati, scritto da Cristiano Cavina, pubblicato da Marco Simarco, su un libro che io ho amato molto, ne avevo parlato tempo fa, perché di alcuni anni fa, dove lui racconta proprio la sua storia personale, abbandonato dal padre, nel momento in cui sta per diventare padre scopre il vero padre, il vero suo padre, che però è malato, vuole incontrarlo, insomma una storia molto commovente. Ma mi piace segnalare di Cristiano Cavina un libro per bambini, perché non ci dimentichiamo dei bambini. Ci teniamo, più o meno ogni puntata ce la facciamo a consigliare un libro per i bimbi. Allora, si intitola Pinna morsicata. Diciamo che è un libro sia per bambini che per adulti, un po' come fa Sepulveda, no? Adesso va di moda per gli scrittori scrivere favole per bambini, che però hanno un significato anche per gli adulti. È la storia di un delfino che si chiama Pinna morsicata, che ha perso la mamma e ha questa, appunto, pinna morsicata sul dorso. Ha perso proprio la gioia, la gioia di vivere. Viaggia un po' senza rotta finché non incontra un buffo pesce che si chiama Spigolo, che assomiglia a una specie di borsa della spesa. E insomma parleranno di solitudine, tristezza, amicizia, e così Delfino riuscirà a capire che la solitudine e la tristezza non sono solo sue, ma possono essere anche di altri e possono essere superate con l'amicizia. Mi piace tanto già Spigolo, il pesce Spigolo mi piace tantissimo. Il pesce Spigolo, c'è la spigola, c'è lo Spigolo. Spigolo è carino. E parla il delfinese, tu lo sai parlare il delfinese? No, mi piacerebbe conoscere Spigolo per farmelo insegnare. Oh, pinna morsicata, Cristiano Cavina, Marco Simarcos, per i bambini dai 9 ai 99, facciamo così. Certo, come si scriveva un tempo sui giocattoli, non so se si scrive ancora. Alessandra, vedo che hai davanti a te due libri con una copertina molto americana, Stars and Stripes. Sì, per guarda, tutti e due i libri. Li ho proprio presi così, ho preso due traduttori italiani di libri, in genere di romanzi americani. Allora, c'è Silvia Pareschi, che in genere traduce Jonathan Franzen, Don DeLillo e Cormac McCarthy, e poi c'è Seba Pezzani, che traduce, per esempio, fra gli altri, anche Jeffrey Deaver, ma anche John Lansdale, insomma cose piuttoste, cose belle, veramente trucide, diciamo così. Entrambi hanno appena scritto un libro su come loro, che veramente conoscono benissimo l'America e gli scrittori americani dall'interno, vedono l'America. Allora, Seba Pezzani ha scritto Istruzioni per l'USA, USA, Oltre Edizioni, ed è praticamente la storia del viaggio col suo gruppo rock, che si chiama Rab 4 o Rab 4, fai un po' come tu, nel quale canta ogni tanto anche la figlia di Joe Lansdale, il mago del thriller americano. Insomma, è tutto fantastico. Un giro che non ti dico. e racconta insomma la sua visione dell'America, non di New York, delle grandi città, ma dell'America altra. E fra gli aneddoti, per esempio, c'è Jeffrey Deaver che organizza una cena a casa della sua ex fidanzata in onore appunto di questo gruppo di italiani, fra cui fa parte Seba Pezzani. Bello, mi piace, mi piace. E loro saranno presenti anche al Salone del Libro di Torino. Ricordiamo che il prossimo fine settimana ci sarà a Torino il Salone del Libro. Quindi mi sa che sabato libro. Prossimo ti sentiamo dal Salone. Questa sensazione ti chiameremo Anna Bonaiuto da leggerà La Ferrante al Salone del Libro. Sarete tutti lì. E poi Silvia Pareschi, il libro si intitola I Jeans di Bruce Springsteen e altri sogni americani, pubblicato da Giunti. In questo caso è il Californian Way of Life, cioè il modo di vivere californiano non stereotipato, ma è la San Francisco, come dire, dei senza tetto, del palazzo del porno. Chiudiamo il ciclo, siamo partite da Maestra con questo libro un po' hot, i Jeans di Bruce Springsteen invece vanno a finire ancora lì. Vabbè, era una puntata senza frontiere, è diventata anche una puntata un po' hot, fa niente. Grazie ad Alessandra Tedesco, un consiglino per chiudere, quello del cacciatore di libri, quando? Sentitevelo in podcast, va, che facciamo prima. Radio24.it. Ma sì. Ciao Alessandra, al prossimo Ciao. Sabato. Sono qua, monta su, non ci avranno finché questo cuore non creperà di ruggine, di botte o di età. Sono subito una ragazzina quando sento questo pezzo, Urlando contro il cielo, che compie 25 anni. Come festeggiamo questo compleanno? Beh, la notizia era nell'aria, soprattutto dalle mie parti. Noi in Brianza lo sapevamo già. Beh, ora è ufficiale. Luciano Ligabue sarà al Parco di Monza il 24 settembre con Liga Rock Park. Un concerto per almeno 100.000 persone. Noi ne abbiamo parlato proprio con Luciano Ligabue. L'intervista integrale andrà in onda domattina in 140 caratteri dopo il giornale radio delle 8. Ma intanto ne abbiamo un assaggio. Sentiamo perché Luciano Ligabue ha voluto fare questo evento assolutamente unico. Mi piace molto vivere l'emozione di un concerto che in qualche modo deve andare bene quella sera lì. Sono abituato ai tour, ovviamente, che mediamente prevedono questa cosa: tu fai una tua prima che non è mai come vorresti, dopodiché aggiusti un po' le cose con la seconda e la terza, quando sei al quinto, sesto concerto gli show sono come volevi. A me piace invece pensare che concerti one shot, nella loro imperfezione, però brucino via un'emozione ancora più potente. Io voglio offrire un happening, voglio offrire una due giorni in cui la gente si possa vedere, trovare, incontrare vicino a questa reggia bellissima, e quindi diventa anche promozionale addirittura il concerto della bellezza di questo parco e in qualche modo di tante altre bellezze che sono ancora da promuovere di questo paese. Ligabue domattina dopo il giornale radio delle 8. Intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. Beh, Carlo, il nostro traduttore di latina, era da qualche settimana che non lo sentivamo. Ah beh, certo, scrive: santa pace che noia sta lì via di Montalbano e non le sta mai bene nulla. Invece Camilleri, mitologia pura, appunto, come ci ha detto Alessandra Tedesco. Manca poco per il nuovo Camilleri, il numero 100. E poi c'è Stefano che manda un messaggio un po' cattivo, anzi molto cattivo. Gomorra è una storia di bastardi, figli di puttana, l'ho detto, che state esaltando come fossero eroi e non avete il coraggio di dirlo perché siete anche voi omertosi. Beh, insomma, no, omertosi per niente, mi verrebbe voglia di dire anch'io una parolaccia, ma non la leggo, mi sono limitata a leggere la tua. Non abbiamo esaltato nessun eroe, abbiamo parlato molto bene di una bellissima serie che racconta il grande male del nostro paese e, come sempre, il grande cinema e attualmente anche le grandi serie televisive hanno trovato il meglio, hanno dato il meglio raccontando i grandi mali del nostro paese, e si è omertosi quando non li si racconta e non quando li si racconta. Ci risentiamo tra poco ancora col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E rieccoci con il sabato del villaggio. Intanto ci scrivono su Gomorra 2, ci scrive su Twitter @irrere. Ma le musiche, grandissime anche le musiche di Gomorra. Adesso però è il momento, ve l'ho detto, ve l'ho anticipato, di tornare a parlare di pizza. Sentiamo perché. Posso dire perché non parlo il napoletano e correrai il rischio di pronunciarlo davvero male, ma fatti una pizza, levati uno sfizio, lo diceva Pino Daniele, mi sembra un ottimo consiglio anche a quest'ora, a tutte le ore. Io se dovessi vivere di un solo alimento, forse sceglierei proprio la pizza, credo sia una delle cose più buone del pianeta. Ma perché parliamo di pizza nel nostro spazio dei consumi in questa puntata così senza frontiere? Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti, concordo assolutamente anche io nella lista dei 10 alimenti da tenere prima della morte, sì. La pizza, assolutamente. Sì. Beh, perché voglio parlarti appunto di un evento che ha a che fare con il prodotto italiano per eccellenza, il prodotto gastronomico italiano più famoso ed esportato al mondo. Per chi domenica 15 maggio sarà a Napoli, magari così Marta diamo un suggerimento. Un suggerimento per organizzare un weekend, perché se uno non è in zona sa già che succede qualcosa di bello a Napoli. Cosa succede a Napoli? Allora, si cercherà di raggiungere un nuovo record del mondo con una pizza lunga 2 chilometri. Io mi ricordo che l'anno scorso era stato fatto un record Expo. A Expo, e batteranno quello, quindi. Evidentemente, l'unione fa la pizza, è questo il claim dell'evento. Centinaia di maestri pizzaioli metteranno mano a questa mega pizza fatta solo con ingredienti campani DOC. Nel corso dell'evento, tra l'altro, i partecipanti potranno anche firmare a sostegno della candidatura dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. Verissimo, verissimo. Se c'è da firmare, firmo. Patrimonio dell'UNESCO tutta la vita. Beh, sì. Moltissimi VIP, tra l'altro, Marta, hanno già firmato. È una proposta molto seria del Ministero dell'Agricoltura, con il sostegno del Ministero degli Esteri, dell'Università dell'Ambiente e dell'Economia. Ci facciamo raccontare tutto però da Claudio Sebillo, che è il responsabile del Napoli Pizza Village, che ha promosso l'iniziativa. Buon pomeriggio Claudio. Buon pomeriggio a voi. Allora, come farete a fare questa mega pizza? Quanti forni avete? E allora, abbiamo costruito, ideato, costruito e brevettato 5 forni che in sostanza sono i tradizionali forni a legna tipici della pizza napoletana, opportunamente modificati e motorizzati per l'occasione. Nella fattispecie appunto abbiamo motorizzato i 5 forni con dei motori elettrici in grado di garantire una velocità standard, e abbiamo modificato i forni in modo da consentire appunto l'ingresso e l'uscita della pizza, nonché l'approvvigionamento della legna. Quindi praticamente la pizza sta ferma e il forno si muove. Perfetto, perfetto. pizzaioli solo napoletani, Claudio? No, ci aspettiamo e sappiamo di tanti pizzaioli che arrivano da tutto il mondo a partecipare a questo tentativo di record. Sono curiosa di sapere, per così sgomberare il campo da ogni malinteso, quali saranno i veri ingredienti della pizza napoletana, così lo impariamo tutti. Beh, gli ingredienti sono gli ingredienti tipici appunto della nostra pizza napoletana, che nella fattispecie saranno quelli per realizzare la margherita e la marinara, che sono appunto le due pizze più famose. Nel caso appunto della margherita abbiamo, a partire dall'acqua e dalla farina per l'impasto, abbiamo poi pomodoro, olio e mozzarella. La variante è con aglio ed origano per la realizzazione invece della margherita. Il nostro obiettivo appunto è quello di realizzare orientativamente 1 chilometro ed 1 chilometro delle due rispettive pizze. Vabbè, ce n'è abbastanza per assaggiarle tutte e due, così capiamo quale ci piace di più. Un richiamo, Claudio, agli ingredienti, Doc, perché ultimamente, recentemente, ci dice Coldiretti, quasi due pizze su tre servite in Italia sono ottenute da un mix di ingredienti provenienti da, in realtà, da migliaia di chilometri di distanza. Non bisogna abbassare la guardia su questo. Assolutamente, questa è una battaglia che portiamo avanti da anni insieme alla Coldiretti, come Napoli Pizza Village, ma come Associazione Pizzaioli Napoletani. Siamo sempre molto attenti agli ingredienti che utilizziamo noi direttamente anche in occasione delle manifestazioni, ma soprattutto facciamo attività di sensibilizzazione continua verso una problematica che ormai è nota a tutti, che è appunto quella dell'utilizzo di prodotti che tutto sono tranne che di qualità. Noi invece utilizziamo e proponiamo prodotti che sono made in Italy e addirittura made in Campania spesse volte. Abbiamo parlato della raccolta di firme per la candidatura dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio dell'UNESCO. Come sta andando? Beh, decisamente bene ed anche oltre le nostre aspettative. Questa è un'iniziativa partita nel 2014, appunto, in occasione del Napoli Pizza Village, in collaborazione con la Fondazione Univerde dell'ex ministro delle politiche agricole Alfonso Pecoraro Scanio. Abbiamo lanciato questa iniziativa, questa attività di sensibilizzazione, che ha trovato immediatamente riscontro nella più grande piattaforma di petizioni online, che è change.org, e soprattutto ha trovato un ampio riscontro in Italia e nel mondo. Siamo oggi ad oltre 1.200.000 firme, ma soprattutto oggi vantiamo quello che per noi era forse il risultato più difficile da raggiungere, vantiamo la candidatura del governo italiano all'UNESCO. Siamo di fatto la prima delle candidature che il governo ha portato all'UNESCO. Grazie, grazie a Claudio Sebillo, Napoli Pizza Village. Adesso ho una voglia di pizza che mi si porta via. Non so proprio più come esprimerla. Grazie Claudio, arriveremo a Napoli. Grazie a voi e chiaramente soddisfate questa voglia venendo il 15 a Napoli. Sì, che tentazione. Arriveremo, grazie Claudio, a presto. Grazie a voi. Maria Luisa, adesso è momento di spostarci nel nostro angolo dei consigli preziosi che arrivano come sempre da Cristina Lazzati. Allora, chissà se ce l'abbiamo in linea. Cristina, ciao! Buon pomeriggio, eccoci qui. Questa volta che chicche ci hai trovato in fatto di costumi, novità, consumi? Che cosa possiamo trovare di nuovo? Cominciamo con una domanda. Sapete che domani è la festa della mamma? Lo so. Allora, per tutti quelli che hanno la fortuna di avere mamme o ragazzini che devono essere indirizzati dai papà che ci stanno ascoltando, perché ci sono anche i papà che devono provvedere quando i bimbi sono piccoli, che cosa possiamo consigliare? Allora, cominciamo col dire che, ad esempio, in Spagna la festa della mamma c'è già stata, quindi possiamo cominciare a partire da lì. A copiare loro. Allora, pare che le mamme spagnole siano diventate super tecnologiche. Quindi i regali che sono andati tantissimo in Spagna sono proprio legati alle varie tecnologie, per cui che ci sia dall'orologio da polso che misura i battiti, al Kindle, ai computer, ovviamente, qui veramente ci vuole l'aiuto di papà. Lo stesso vale per i vari iPad, iWatch, eccetera, e lo stesso pare che valga per le mamme francesi che invece festeggeranno a fine mese. Quindi diciamo che pur stando in mezzo, il consiglio è mamme super tecnologiche, quindi buttiamoci su quello e cerchiamo di trovare dei regali che non siano, perché ho trovato un bellissimo elenco, dice cosa non regalare. Allora, ad esempio, regalare un abbonamento in palestra, perché, bene o male, meglio regalare la spa, perché pare che le mamme italiane, comunque rispetto alle colleghe tecnologiche europee, amino comunque un po' di coccole. Beh, la spa poi è un bel messaggio, hai lavorato tanto, per me ti puoi fermare un attimo. Esatto, poi mettiamoci anche il fatto che le mamme italiane lamentano di non passare abbastanza tempo con la famiglia. Altra cosa invece da non regalare, ma questo ormai l'abbiamo imparato tutti, cose per la casa e la cucina, a meno che non siano richieste. Ad esempio pare che in America, quindi arriviamo anche alle mamme americane, una cosa che va tantissimo è il dissipatore, che non è quello del dissipo la famiglia nel momento in cui mi fanno arrabbiare, ma una cosa molto più ecologica, che è il classico che avremo visto in mille film e telefilm americani, che si applica al rubinetto e dove ci si butta i rifiuti organici e li riduce così. in pezzettini piccoli piccoli e fa sì che puzzino meno, che non stiano a ingombrare troppo in casa, eccetera eccetera. Sta arrivando anche in Italia, Cristina, come prodotto? Sì, sta arrivando anche in Italia, pare che sia pronto, sia in commercio. Basta cercare dissipatore su internet e troverete il modello e l'azienda. Tra l'altro l'azienda che la produce si chiama InSync Aerator, che detto così appunto sembra un po' Sterminator, però Sterminator di rifiuti, quello va sempre bene. Anche Amazon.it si è attrezzato, per cui c'è addirittura una videata dove le mamme sono divise per tipologie: relax, tecnologica, creativa, sportiva, la neomamma, alla moda, casa e cibo e bevande, dove più o meno se uno si orienta e dice la mia mamma è sportiva piuttosto che le piace rilassarsi, allora va lì, ci sono una serie di proposte che non necessariamente in quella sportiva ci sono solo scarpette da tennis, ma ci sono una serie di abbigliamento, accessori eccetera che girano intorno al mondo dello sport. Beh, mi piacciono tutti. Tu, Luisa, cosa ti faresti regalare? Perché se qualcuno non ha ancora fatto il regalo, magari adesso sente per la radio e così ha qualche... Beh, così... io qualche indizio l'ho già disseminato in settimana. Mia figlia era molto attenta. L'hai già dissipato. Ma non lo diciamo troppo. Però scopriremo se è stata abbastanza attenta. Grazie a Cristina per tutti questi consigli e buona festa della mamma, visto che sei mamma, quindi ti facciamo gli auguri. Grazie a voi e auguri a tutte le mamme in ascolto. Ciao Cristina. Davvero, auguri a tutte le mamme. Maria Luisa, invece, per essere avere l'appuntamento? L'appuntamento è per domani alle 22 come sempre, poi vorrei aggiungere quest'anno la festa della mamma cade il giorno del mio compleanno, quindi, beh, quindi doppio regalo. Doppio regalo, doppio regalo. Auguri per ciao, domani. Il sabato del villaggio. Ci siamo, abbiamo iniziato questo sabato del villaggio con Francesca Michielin, con Nessun grado di separazione, che però adesso dovremo cominciare a chiamare No Degree of Separation, il titolo in inglese, la stessa canzone ma con un pezzettino in inglese, che sarà la rappresentante italiana allo Eurovision Song Contest che sta per iniziare a Stoccolma. Ci sono già le prove, il Festival Europeo, noi ne parliamo tutti gli anni, siamo molto affezionati a questa manifestazione, ma abbiamo sempre modo di tornare sulle istruzioni per l'uso, perché per chi non la conoscesse, insomma, è giusto capire cosa succederà la prossima settimana, come vederla, dove vederla, cosa fare, di cosa si tratta. E quindi abbiamo come sempre il nostro super esperto, talmente esperto che fa parte della delegazione italiana che in questo momento è a Stoccolma, quindi ha già anche visto la prima prova di Francesca Michielin, Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Berta e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Allora Eddie, dici subito com'è andata la prima prova, è piaciuta? Io direi benissimo. Ah. Io non ricordo una prova così ben riuscita da quando l'Italia è tornata all'Eurovision. C'è qualcosa da aggiustare ovviamente, per quello servono le prove, però io ho visto un entusiasmo inedito soprattutto da paesi, ti parlo dei paesi nordici, di fan, di giornalisti, che normalmente sì, ci snobbano un po'. L'anno scorso avevamo una proposta molto, molto, molto forte. Insomma. Ecco, il volo nordici... pensavamo di vincere, diciamolo. Abbiamo assaporato fino all'ultimo il desiderio di vittoria e siamo arrivati però sul podio. Abbiamo vinto il televoto. Ah certo, perché noi col voto popolare abbiamo vinto, le giurie ci hanno penalizzato. Notare questo plurale, no? Noi ci mettiamo come italiani, no? Le giurie popolari ci hanno le giurie ci hanno penalizzato, il voto popolare l'abbiamo stravinto l'anno scorso. Sì, le giurie di esperti. Certo. L'anno scorso abbiamo fatto il secondo miglior risultato al televoto della storia dell'Eurovision, il miglior risultato al televoto di una canzone non in lingua inglese, però non è bastato per vincere. È un po' malato Eddie, non dico il clima svedese perché mi hanno detto che fa caldo, no? Perché io sto facendo la valigia perché lunedì io arrivo a Stoccolma. Allora colma è un come dire, una temperatura molto bizzarra, perché se tu nella stessa strada ti muovi dal lato dove c'è il sole è estate piena, dal lato dove c'è l'ombra è primavera inverno. Allora mi quindi troverete malata la prossima puntata, bene? Devi cambiare di abbigliamento da una parte all'altra della strada, quindi non, è una bellissima primavera. E quindi abbiamo fatto male a Eddie. Eddie, ti chiedo un po' di istruzioni per l'uso. Allora, Eurovision Song Contest fatto di 42 paesi che concorrono in due semifinali e una finale quando? Allora, le due semifinali sono il martedì 10 e il giovedì 12 maggio alle ore 21, saranno trasmesse per l'Italia da Rai 4. Perfetto. E gareggeranno in ognuna di queste semifinali 18 canzoni, 10 andranno in finale, quindi avremo 20 canzoni qualificate alle semifinali. Ok. A loro si aggiungeranno i 6 qualificati di diritto, che sono la Svezia, campione in carica e paese ospitante, e i 5 Big Five, ovvero i maggiori contribuenti EBU, Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania. Quindi noi, come ogni anno, siamo di diritto in finale, perché siamo, diciamo, i paesi più grandi, quelli che pesano di più nell'Unione Europea dell'Eurovisione, e la vedremo in diretta anche questa sabato sera. Sabato sera, dalle 21 in poi, su Rai 1. Per la prima volta. Torna in diretta su Rai 1, la prima volta del nuovo ciclo. No, 25 anni fa era ancora su Rai 1, però nella nuova un po' come dire un po' come le Olimpiadi moderne per noi, l'Eurovision moderno. Esatto. Saremo su Rai 1 con il commento di Federico Russo, confermato l'anno scorso, e Flavio Insinna. Ah, fantastico. Quindi altra domanda, visto che abbiamo parlato di televoto, noi italiani che amiamo televotare, possiamo televotare? Noi possiamo televotare per tutti i paesi tranne che per l'Italia. Ecco, quindi non possiamo votare giustamente per la nostra concorrente. Il gioco è proprio quello: se tutti i paesi potessero votare per se stessi, tutti avrebbero il massimo alla loro canzone, anche per motivi nazionalistici. E quindi si dice: ok, non votate per voi, fatemi sapere chi preferite tra gli altri. Lo fanno tutti i paesi, quindi la Svezia non può votare per la Svezia, la Norvegia non può votare per la Norvegia e così via. Se un italiano chiaramente si trova in Germania può, con una scheda tedesca, votare per l'Italia. Ma cioè, se avete dei parenti, non è che vi obblighiamo, però se avete dei parenti all'estero uno può dire, magari suggerire velatamente, votate per l'Italia. La Turchia prendeva sempre il massimo quando era in concorso dal televoto tedesco, perché certo, le comunità turche votavano tanto per il loro paese d'origine. Certo, certo. Sempre, se ci fosse stato il televoto degli anni 60, Italia e Portogallo avrebbero vinto un'Eurovision un anno sì, un anno l'altro. Certo, certo. Allora, ultima domanda, sì. Eddie, ti faccio... Ah, un'altra cosa, sì. Il televoto costa la metà. Ah, beh, interessante notizia. Questo, costa la metà. 1,01€, quest'anno 50 o 51 centesimi. Beh, questa è una... molto bene, perché il televoto è sempre un po' troppo caro per i miei gusti, e questo invece è giusto. Una delle poche cose che si è dimezzato il prezzo in Italia. Sì, è vero, quindi è una notizia. Sfatiamo ancora una volta questa leggenda per cui l'Italia va, ma spera di non vincere, perché costa troppo poi organizzarlo l'anno successivo. Ma l'Italia, dopo l'anno scorso, dove abbiamo proprio pensato di vincere, voluto vincere, direi che non ci sono più dubbi. E costa organizzarlo, costa come una manifestazione media, costa un po' meno di Sanremo e costa circa 1000 volte meno delle Olimpiadi, eppure vogliamo tanto fare le Olimpiadi. Non vedo perché l'Italia possa avere paura. Sì, non vedo perché l'Italia possa avere paura dell'organizzare. Presentare il dossier per le Olimpiadi costa come organizzare 5 o 7 Eurovision, a seconda di quanto lo fai caro. Solamente presentare la documentazione per candidarsi a organizzare le Olimpiadi. L'Italia lo sta facendo senza remore, quello. Io non vedo perché avere paura di un evento che porta l'Italia a un... porterebbe l'Italia a una visibilità internazionale nuova, dinamica, che fino adesso gli è mancato. Eddie, ultimissima cosa, quest'anno va in onda anche negli Stati Uniti per la prima volta? Sì, è trasmessa in diretta negli Stati Uniti sul Logo TV. È una ci stiamo espandendo all'estero. Ci stiamo espandendo all'estero, fuori dall'Europa, negli Stati Uniti, la Cina. Ah, vedi? La seconda emittente più grande della Cina trasmette l'Eurovision da qualche anno, e poi soprattutto l'Australia, che oltre a trasmettere l'evento partecipa all'Eurovision. Quest'anno non è invitata straordinaria, è ammessa direttamente in finale come un anno fa, dovrà passare per le semifinali, ma è una delle proposte più sofisticate e una delle proposte che potrebbero fare meglio la sera di sabato. Grazie, grazie a Di Anselmi. Allora curati, perché quando arrivo lunedì a Stoccolma ti voglio sentire guarito. Grazie Eddie, a tutti un buon Eurovision. Un saluto a te e a tutti, da Patrizia Scottoli di Radio 24. Ciao. Grazie, grazie Eddie. Eurovision o Eurovision, chiamatela come volete. Martedì, giovedì e sabato si vedrà in televisione. Allora noi diamo la linea al giornale radio delle 17, ma poi saremo ancora insieme per la terza ora del sabato.